versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, benvenuti. 16:36 primi 2 secondi qui dagli studi Radio 24 di Milano. Siamo in diretta e andiamo subito al punto della trasmissione di oggi, nel nostro incontro, chiedendo anche a voi di dirci come l'ha pensato. Se volete chiamare, il numero è 800 24 00 24. Il tema di cui ci occupiamo oggi è il debito, per una volta non il debito pubblico, che ci esce un po' dagli occhi e purtroppo continua a crescere, ben oltre il 130% del PIL. Ci occupiamo di una questione che è il debito privato, cioè la somma dei debiti delle famiglie italiane e delle imprese non finanziarie, cioè banche escluse, intermediari finanziari esclusi. E nella puntata di oggi tenteremo di capire chi ha ragione tra due punti di vista, perché c'è il primo punto di vista di chi si preoccupa, perché in questi anni terribili il debito privato, insomma famiglie e imprese non finanziarie, è molto cresciuto, cioè è un debito che diciamo stava a poco più del 120%, 15 anni fa, e adesso stiamo al 190%. Ripeto, debito privato, famiglie più imprese non finanziarie. Da una parte c'è chi si preoccupa, perché come ovvio significa che le condizioni di minor reddito disponibile, di restrizione di credito, portano a un indebitamento maggiore che andrà quindi remunerato con gli interessi, bisogna rientrare sul capitale, le famiglie e le imprese. Dall'altra parte, seconda lettura di questo dato, di coloro che dicono: ma che piffero dite, ma l'Italia in questo è strepitosamente più forte di tutti gli altri paesi, perché se andate a vedere la ricchezza finanziaria netta delle famiglie rispetto al totale del debito pubblico, beh, ma noi continuiamo a essere molto molto più solidi di quanto non siano la Germania, la Francia, la Spagna, la Grecia. Quello che conta non è tanto il debito che cresce le famiglie, ma il fatto che loro abbiano un surplus di patrimonio accumulato tale per cui la vera garanzia del debito pubblico italiano non sono gli asset dello Stato, che infatti non bisogna cedere, dicono coloro che sostengono questa cosa, ma il fatto che c'è una ricchezza finanziaria netta delle famiglie che resta positiva. E quindi, cari signori, non venite a fare allarmismo sulla cifra del debito dei privati, perché dovete solo ripetere che i privati garantiscono da soli il debito pubblico in maniera molto ampia, perché per capirci, se andiamo a fare il rapporto tra debito pubblico e ricchezza delle famiglie, beh, ancora oggi il debito pubblico rispetto alla ricchezza delle famiglie è di poco superiore al 70%, la ricchezza finanziaria netta. Allora, diteci anche voi come la pensate, perché io appartengo al primo partito, non al secondo. Il secondo non mi piace, perché in realtà, a furia di ripetere che poi la ricchezza finanziaria netta delle famiglie che deve sostenere il debito pubblico ci faranno la mega patrimoniale, ci diranno: beh, allora beccatevelo il rientro del debito pubblico così. E penso che invece di tasse stiamo già morendo abbastanza. E cerchiamo di capire con un ospite che mi ha colpito, perché 2 giorni fa ha esattamente svolto la prima parte di questo ragionamento e ha ricordato le cifre che sui giornali è difficile trovare. I giornali ci riempiono di debito pubblico, ma il debito dei privati, tranne che sui quotidiani specialistici come ovvio Sole 24 Ore e così via eccetera, degli altri si fa meno attenzione a questo dato. Si ripete solo che gli italiani stanno messo meglio degli altri paesi, che sono più indebitati storicamente, perché i privati spendevano e si indebitavano per quote molto più elevate del reddito disponibile, anche oltre il 100% nei paesi che poi sono esplosi prima del 2008. Ecco, l'ospite che è con noi si chiama Fabrizio Goria, è un giornalista dell'Inchiesta. Io ne ho grandissima stima, è molto più giovane di me, ma molto più bravo di me. E appunto, nel salutarlo e ringraziarlo di essere qui con noi, grazie Fabrizio. Grazie a te Oscar e una buona serata a tutti i radioascoltatori. Vorrei che tu iniziassi riepilogando come è andato in questi anni il debito privato degli italiani, nostro e rispetto a quello degli altri paesi. Intanto diamo a chi ascolta un po' di dati per capire come stiamo messi. Certo, innanzitutto io sono partito dai dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, che ha una grandissima serie storica, prende in esame appunto gli ultimi 20 anni in pratica, e se noi prendiamo come metro di paragone appunto i dati dell'OCSE, scopriamo che nel 1995 il rapporto tra il debito privato e il PIL italiano era intorno al 127%, quindi abbastanza alto, ma notevolmente meglio ad esempio di quello tedesco, che era al 152% circa. Allo stesso modo anche Francia e Regno Unito avevano nel 1995 un debito privato in rapporto al PIL di questa entità. Paradossalmente uno dei paesi più virtuosi 20 anni fa era la Grecia, perché il debito privato greco era circa il 51,8-52% del prodotto interno lordo. Poi le cose si sono evolute e in modo abbastanza significativo, perché intorno al 2000 il debito privato italiano è salito oltre i limiti. La più grande espansione però c'è stata tra il 2000 e il 2005, quando ci fu un picco di debito privato italiano che è stato del 160% del PIL, a fronte di un debito pubblico del 97,7%, che appunto questo era il debito pubblico italiano nel 2005, sempre secondo i dati dell'OCSE. È andata molto peggio però anche alla Germania, perché il debito privato della Germania era del 171,63% del PIL. Sono cifre incredibilmente elevate, che però appunto testimoniano quello che è stato secondo la mia modesta opinione, non tanto l'introduzione dell'euro, quanto un sistema di fattori produttivi, fattori di crescita completamente distorto rispetto a quello che poi era la realtà. Cioè, di fatto l'economia occidentale è cresciuta con dei fattori di crescita basati sulla spesa e sull'indebitamento. Noi siamo cresciuti, secondo la mia modestissima opinione, sul debito, e questo purtroppo si è visto. Alla fine cosa è successo? L'Italia gli ultimi dati dell'OCSE sono quelli relativi al 2012, poi ci sono le ricerche bancarie. Gli ultimi dati ufficiali sono quelli del 2012, con un debito privato italiano del 186,8% del PIL. Cifre più elevate per Francia, Germania e tanti altri paesi. Questo però non è che ci fa dormire sonni tranquilli, chiaramente. Ecco. Quindi l'evoluzione del debito privato è sicuramente stata molto molto più avanzata con l'avanzamento della crescita economica, perché ripeto, noi siamo cresciuti sul debito, non su altre ricchezze. In più c'è da porre l'attenzione sulla distruzione di ricchezza, perché noi forse ci dimentichiamo, sono tante belle le favole che ci raccontiamo della nostra ricchezza privata, ma la nostra ricchezza privata è basata soprattutto su asset come gli immobili. Il mattone. Ed è chiaro, oggi è uscito il bollettino economico della Banca d'Italia relativo a gennaio, e poi su Twitter ho postato un grafico per far vedere l'andamento dei prezzi in Italia negli ultimi anni delle abitazioni. Beh, è una curva a ribasso che sinceramente fa spavento. Esattamente, e che contraddice quello che per decenni, diciamo, veniva veicolato come convinzione anche ai decili più bassi di reddito, cioè a chi se la passa peggio. La convinzione era: mettete parte anche molto rilevante del vostro reddito disponibile in un impegno di acquisto immobiliare in un orizzonte trentennale, anche se sia il 50, il 60, più del 60% reddito disponibile mensile, tanto il valore del mattone non potrà che crescere. Anche quando l'economia va male, il mattone non scende mai. Sciocchezze, perché c'è un punto di rottura, no, dei valori di crescita di un sistema al di sotto del quale anche i valori immobiliari e patrimoniali iniziano a decadere, come capita sul mercato immobiliare in questi ultimi 2 anni con particolare intensità. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in un percorso di crescita, io condivido quello che ha detto Fabrizio, minato dall'eccesso di debito pubblico, ma anche dall'aumento di un terzo complessivamente del totale dell'esposizione del debito privato, famiglie e imprese non finanziarie, rispetto a metà degli anni 90, noi siamo arrivati nel 2012 con il debito privato che era invece che 120, 180% punti di PIL. Queste sono state le determinanti fondamentale, debito pubblico e debito privato. Quando poi si arriva al rendiconto di anni di crescita negativa e decade il valore medio dell'unità immobiliare, che è il più della vostra ricchezza finanziaria attiva, positiva rispetto anche al debito pubblico, ecco che la prospettiva diventa che quelli che vi raccontano ma tanto siete voi i veri garanti con i vostri mattoni del debito pubblico, vi stanno iniziando a raccontare una doppia balla. Primo, perché il vostro valore lo state perdendo e diventerà sempre meno attivo. Secondo, perché poi in ogni caso qualcuno forse verrà a farvi toc toc prima che decada troppo e vi chiederà di dare, per così dire, oro alla patria, mattoni alla patria, per così dire. Ecco, adesso abbiamo il minuto di informazione stradale, però poi devo chiedere a Fabrizio Gradi di spiegare ancora meglio che cosa vuol dire dal punto di vista delle imprese, paragonate alle imprese degli altri paesi, la parte di debito delle imprese, siamo più o meno indebitati, dobbiamo preoccuparci di più o di meno, e poi la parte relativa alle famiglie. Ripeto, qui stiamo parlando di indebitamento con livelli anche di reddito, se fate a parità di potere d'acquisto con gli altri paesi, noi abbiamo un reddito più basso, quindi anche questo bisogna naturalmente contemperare rispetto al fatto che sul PIL noi abbiamo un debito privato più basso di quello della Germania, però abbiamo avuto questo incremento di un terzo rispetto al pre-euro. Strade adesso. Eccoci qua, tornate in diretta, 16.47, anzi 16.48, alcuni ascoltatori chiedono alcune definizioni, perché per esempio ci manda Antonio, scusatemi, devo avvicinare per leggere meglio lo schermo, scusatemi, ma le passività finanziarie delle famiglie italiane pari a 895 miliardi, fonte Banca Italia, supplemento del bollettino Stati. Attenti, perché la passività finanziaria, quella che finanzia solo il circolante, mentre qui stiamo parlando del totale del debito, quindi debito anche per la parte patrimoniale, non solo per finanziare il circolante, quindi attento alle definizioni, Antonio, perché questo spiega perché c'è una differenza. Qui stiamo parlando del totale del debito privato. Abbiamo poi degli ascoltatori, sentiamo Carlo da Cantù, prego Carlo. Signor Giannino, buonasera. Buonasera. Sono un artigiano alla disperazione. Mi dispiace per lei, ma la capisco. Allora, banca fra le più grosse che ci sono in Italia, Intesa San Paolo per intenderci, ha mandato una bella circolare il 22 di dicembre con il raddoppio dei tassi dal 7,35 al 14 e il Castelletto dal 6,75 al 13. Ma ci rendiamo conto? Ma le dite come fanno ad andare avanti? Questo. E poi per finire le dico questa di ieri, Agenzia delle Entrate, che chiedono i soldi due volte, che li hanno presi dall'assicurazione come fideiussione e adesso me li chiedono un'altra volta. Allucinante questo stato ladro. Carlo, scrivimi anche all'indirizzo della trasmissione che ti rispondo meglio, perché al di là dello sfogo ovviamente vediamo, cioè, un pochino. È allucinante, sì, quello sì, che sta succedendo. Lo capisco. Pazzesco. E la risposta, faccia ricorso. Ecco, faccia ricorso. Certo, è prima caccia e poi vediamo che puoi fare. Sentiamo Paolo da Pavia, prego Paolo. Sì, salve. Io salve. Vorrei, ma non mi lamento. Volevo dire solo una cosa. Già abbiamo detto che parte del debito e del patrimonio sono immobili, che poi la liquidazione, caso reale, casa fuori da Milano da 300.000 euro quasi a 170. No, una parte predominante dell'attivo finanziario delle famiglie sono gli immobili. Non dell'attivo, che in più quello che non si dice e che è fondamentale è che il debito in Italia è stato fatto non per finanziare nuovi attivi o attività positive, ma per costruire continuamente case che a questo punto non finanziano più nulla. Il problema grosso del nostro debito, secondo me, è questo, cioè del nostro patrimonio e di come non possiamo più fare un debito sano. È proprio questo, che noi abbiamo capitali bloccati. Che cioè Paolo, tu dici, abbiamo messo una parte molto rilevante dei flussi di reddito disponibile, quindi immobilizzazioni patrimoniali, che finiscono per essere mano morta, perché ovviamente iniziano ad avere un valore negativo e la cui redditività, anche dal punto di vista degli immobili d'impresa, è diventato un peso perché non generano reddito. E questa è un'altra componente della decrescita italiana, perché aver dato per decenni l'impressione che i rendimenti fossero solo in costante aumento di quel tipo di impiego, effettivamente poi genera un effetto boomerang da questo punto di vista. Torniamo un secondo, anzi a lungo, con Fabrizio Goria. Dal punto di vista del paragone della componente dell'indebitamento di impresa e dell'indebitamento privato, Italia e il resto d'Europa, come siamo messi? Italia è messa particolarmente male, perché c'è stato un ampliamento, un'amplificazione di tutti i problemi, ovviamente legati anche alle famiglie, che poi si sono, c'è stata una ripercussione sulle imprese, nel senso che purtroppo le imprese italiane risultano essere molto più indebitate di quelle estere. Diciamo, almeno più o meno, se non sbaglio, c'è un report di un'importante banca americana di un paio di mesi fa, che testimoniava appunto che le imprese italiane sono indebitate per il doppio rispetto alle imprese tedesche. Questo chiaramente anche per via di tutto il credit crunch che c'è in Italia, quindi la restrizione del credito bancario. Quindi l'ascoltatore di prima, che era piuttosto irato, e ci credo che fosse irato, perché gli hanno alzato i tassi di interesse in banca e il castelletto, chiaramente queste componenti influiscono, ma c'è di più, perché il vero problema forse è sulle famiglie, perché ad esempio il tasso medio di risparmio, quindi la quota di reddito disponibile che gli italiani riuscivano a risparmiare nel 1980 era circa del 20%. Attualmente siamo scesi intorno all'8%, quindi a parte che le famiglie recepiscono meno perché i salari sono praticamente fermi, quindi meno reddito disponibile. Per fortuna, da questo punto di vista, stiamo vivendo da 3 mesi una contrazione dell'inflazione, non siamo ancora in deflazione, però c'è una contrazione dell'indice generale dei prezzi al consumo, quindi per fortuna è un pochino mitigato, ma il tasso di risparmio delle famiglie è calato all'8%, e chiaramente questo è una componente esclusivamente italiana. Il primo ammortizzatore sociale di un giovane è la famiglia, e quindi il tesoretto. I miei genitori, io ho quasi 30 anni, io sto spendendo, la mia generazione sta spendendo i soldi che erano dei miei nonni, e allo stesso modo i miei genitori stanno spendendo i soldi che erano dei loro genitori. Quindi è tutto un circolo vizioso, perché la grande ricchezza delle famiglie italiane, per tornare appunto al discorso originario, si sta erodendo pian piano, e possono venirci a dire tranquillamente le autorità finanziarie, il governo, Banca Italia, il Tesoro, che ci sarà la ripresa. Chiaramente c'è stato anche un cambio di narrativa di questa crisi da 6 mesi a questa parte. È palese che ci sia un piccolo rimbalzo delle attività economiche in Italia, ma questo non è basato sulla domanda interna, è basato sulla domanda esterna, sulla domanda estera. Quindi fin tanto che non si rimette in circolo appunto la domanda interna in Italia, allora sarà una spirale veramente poco virtuosa, ecco, anzi completamente viziosa. Allora, sentiamo Valerio da Rovigo che ci dice. Prego, Valerio. Oscar, sì. Buonasera. Buonasera. Senta, io concordo e sono interessato a tante situazioni, diminuzione, aumento delle imposte o meno, ma come diceva lei in tempi non tanto remoti, se lo Stato non accetta l'idea di spendere meno, di ridurre la sua presenza in maniera massiccia, noi qualsiasi cosa che potremmo fare non andremo mai da nessuna parte. Vivremo alla giornata, cercheremo di chiudere, diciamo così, il buco oggi, domani forse, ma non ci sarà nessuna speranza. Valerio, che posso dirti? Io, come noto, la penso come te. Io quando ho letto sui giornali francesi ieri mattina che gli imprenditori del MEDEF, l'equivalente di Confindustria francese, lamentava e lamenta gli impegni dichiarati dal presidente Hollande nella famosa conferenza stampa in cui tutti si aspettavano che parlasse della manta, invece ha sviato e ha parlato di economia, ma gli imprenditori francesi si lamentano di 30 miliardi di euro di sgravi in 3 anni, 30 miliardi, dicendo sono pochi perché qui ce ne servirebbero 80 miliardi, e paragono i 30 miliardi di sgravi di cuneo fiscale, insomma impresa e lavoro in 3 anni annunciati dal presidente francese a quello che non c'è in Italia, mi viene da strapparmi i capelli che non ho, Valerio, che devo dire, non sarà un caso, no, che tutti i governi di qualunque colore eccetera eccetera per la spending review chiamano un tecnico esterno come scudo, perché non hanno voglia di dirci cosa davvero taglierebbero e come, a cominciare dalle migliaia di società pubbliche. Io ringrazio Fabrizio Goria, col quale oggi abbiamo tentato di farvi riflettere sul fatto che l'indebitamento privato in Italia non è un punto di forza, è un punto di debolezza che aumenta. Attenti a chi vi dice che siete voi i veri garanti di un debito pubblico che continua a salire, perché è come chi vi indica una forca presentandola come una scampagnata. Grazie Fabrizio, continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì.